You're simply the best, Elisa Di Francesca. Ciao, ciao. You're simply the best. Hai portato tutto l'oro del mondo. Probabilmente i ragazzi di ieri sera, un po' invidiosi, si sono presi anche loro a squadra, insomma. Sì, ho seguito la finale in televisione. Prima di tutto ho pensato a tornare a casa e a portare tutto l'oro ieri. Sì. E a godermi poi i festeggiamenti delle persone. Poi ho seguito la finale dei ragazzi, è stato molto ma molto emozionante. Hanno tirato bene, ho visto un Andrea Baldini finalmente carico e tirare stoccate stupende, veramente. Senti, ma è stato più duro il doppio oro individuale a squadre nel Fioretto, regina incontrastata di questa disciplina, una finale del Fioretto a squadre che ha fatto dire a Cerioni, vabbè, non vedo avversari, non so, siete il Brasile di Pelé, siete una squadra da leggenda ormai. Ebbene, è stato più difficile quel doppio oro o ritorno a casa a Iesi? È stato più difficile il doppio oro, anche se sono partita con l'intento di vincere. Siamo arrivati due giorni prima della gara, un giorno prima della cerimonia d'apertura, abbiamo fatto la gara individuale, abbiamo fatto la gara a squadre e poi siamo tornati, quindi il tempo di vincere due ori e di tornare a casa e festeggiare con tutte le persone che mi vogliono bene, non fanno altro che fermarmi e farmi i complimenti, a me fa sempre piacere. E certo, mi viene in mente un altro parallelo, siete la squadra più forte di questa Olimpiade insieme agli Stati Uniti del basket, non so se Dario Ricci, che ha raccontato le tue imprese, condivide, il nostro inviato a Londra. Dario? Assolutamente sì, e quello che si è visto poi durante la finale è stata una scherma metafisica, direi, concedetemi un po' d'enfasi, perché si sono viste su 45 stoccate, almeno 37 erano di un livello superiore. Ma a proposito di Iesi, mi viene da chiedere a Elisa, ma non è che è divisa in contrade Iesi come Siena, la tua, quella di Valentina Vezzali, oppure no, in città c'è armonia, sì? Ciao Dario, innanzitutto grazie per la splendida domanda anche. Beh sì, ieri c'è abbastanza armonia, io Valentina ancora non l'ho vista, sinceramente, siamo arrivati insieme, poi non l'ho vista più. E comunque ieri ci ammirano, ci adorano, perché comunque il nome di questa città che fa 42.000 abitanti va in giro per il mondo da tanto, prima con Giovanna, poi con Valentina e ora pure con me. E Mancini sullo sfondo, Roberto Mancini sullo sfondo, Mancini, è vero, staccato di tre piste. Staccati di tre piste. Elisa, qual è stata la stoccata più difficile in assoluto? Allora, ti dico il momento. La stoccata proprio una, no, lì dopo a mitraglietta mi venivano. Il momento più difficile è stato il primo incontro con la Volubischi, la tedesca. Era il secondo assalto esattamente, e il primo incontro nel quale ho dovuto rimontare, lì stavo in parecchio svantaggio e me la sono vista parecchio brutta. Lì dentro di me sono passate tante sensazioni, cioè ho pensato veramente di finirla lì e di perderla lì, e invece un'altra parte di me ha detto no, cavolo, sei arrivata qua, devi vincere, e quindi non ho mollato e sono riuscita a superarla. Adesso devi ritrovare forse un po' di fame, oltre alle vacanze un po' di fame, oppure è vero quello che disse Aldo Montano ad Atene, le patate fritte non sono mai troppe? Certo, è vero quello che ha detto, io avevo tanta voglia di vincerci, sempre creduto, pure nello svantaggio sono riuscita a rimontare, a risalire, come non so se è presente quando sei nell'acqua, sei per affogare, insomma, ecco, sono riuscita sempre a risalire e a vincere quell'oro lì e l'oro a squadre, siamo state anche lì molto intelligenti, siamo state una squadra molto unita e siamo riuscite a vincere. L'ultima cosa, Elisa, la vita di villaggio, come l'hai vissuta questa spedizione londinese? Io l'abbia vissuta poi così tanto, appena arrivata, essendo poi la prima Olimpiadi, mi aspettavo, non so, un villaggio, io ho fatto l'università, di che ne so, una cosa simile, invece era tutto grandissimo, la gente, c'erano questi muscoli grandi, piedi grandi, questi atleti grandissimi, era tutto gigantesco, come una formica, e quindi ho pensato solo a fare la gara e ho tralasciato tutto l'ambiente villaggio. Sì, giustamente, ma Cerioni va in Francia? E tu? Come? Cerioni va in Francia, c'è questa voce qui. No, è Tomassini va in Francia. Tomassini, e tu che fai? Cosa c'è nel tuo futuro? Io rimango a Iesi, mi allenerò qua e continuerò ad allenarmi con Stefano. Nelle tue contrade. Elisa, grazie. Grazie soprattutto grazie per quelle medaglie. Grazie davvero a Elisa Di Francesco, un abbraccio forte.